qui rispetto appunto a leggere le notizie è quella di un lento declino, lento ma percettibile declino di molte attività, insomma, a cominciare dai negozi, dove se ne vedono molti chiusi, e molti non sono chiusi per ferie, diciamo, sono chiusi proprio per mancanza di possibilità di tirare avanti. E l'altro aspetto, insomma, che si coglie è questo aumento sensibile dei prezzi, perché trainato sicuramente dalla benzina, insomma, la benzina in Grecia costa più di 1,75 euro e il gasolio costa più di 1,52-1,53 euro, cioè prezzi superiori all'Italia, non di molto, ma decisamente superiori all'Italia. Per un'economia come la Grecia è, diciamo, mortale questo aumento, insomma, no? Ovviamente frutto di speculazione, perché sulla benzina, insomma, non ci sono controlli, non c'è un prezzo amministrato controllato, non è solo questione di tasse, insomma, anche qui le accise dello Stato si fanno sentire, ma insomma non è solo questo. Questo ha fatto sì, ha trainato con sé, data l'incidenza del forte del trasporto su gomma, ha trainato con sé l'aumento di tantissimi generi di prima necessità, insomma, ecco, che riscontrano in molte situazioni prezzi superiori all'Italia, insomma, e facendo le dovute proporzioni, insomma, questo è molto significativo. E si avverte, insomma, anche dallo stato delle persone, insomma, quanto sia pesante il taglio dei salari e delle pensioni, insomma, che sono state letteralmente tagliate fino al 15% in alcuni casi, e l'aumento, dall'altra parte, l'aumento delle tasse, per il quale ancora il governo parla di un tavolo aperto a seconda delle categorie, ma diciamo così la cosa è più formale che sostanziale, insomma. Quindi tutto questo fa sì che almeno nelle città, nelle grandi città, Atene, sicuramente Salonicco, ma anche quelle un po' più piccole, Patrasso, Larissa, Ioannina, insomma, comunque grandi centri urbani, la crisi si fa sentire molto di più. In campagna, tra virgolette, la crisi si sente di meno, dato che molta gente riesce ancora a trovare un piccolo reddito dall'attività sulla terra. Significativo da questo punto di vista è che oggi, per dire la stretta del governo sulle tasse, che attualmente se uno compra un quotidiano o compra un pacchetto di sigarette o va a fare il pieno di benzina, gli rilasciano una ricevuta fiscale, cosa che prima non succedeva e da noi sicuramente ancora non succede. Questo per dire, insomma, fa impressione, insomma, vedersi lasciare una ricevuta dopo aver comprato un quotidiano, fa impressione nel senso che uno proprio non ci è abituato, e anche qui, insomma, prima era come in Italia, questo è dovuto a questa stretta fiscale, cioè il governo cerca di raschiare tutto. In questo raschiare tutto combina anche dei casini, insomma, ovviamente, si combina sempre dal punto di vista della stangata sui lavoratori, sui redditi di pensione, ma poi combina proprio dei pasticci come quello sui taxi, per il quale c'è in corso degli scioperi pesantissimi che hanno paralizzato il paese, e questo pasticcio l'ha combinato, è accaduto dopo il rimpasto governativo, in quanto l'attuale ministro dei trasporti ha sconfessato l'accordo precedente fatto dal precedente ministro dei trasporti con i tassisti, per i quali la liberalizzazione delle licenze sarebbe stata graduale e avrebbe tenuto conto anche, diciamo così, della presenza turistica, in qualche modo della popolazione, quindi con un certo criterio di proporzionalità, e questo accordo, insomma, li aveva tacitati. L'impasto, il nuovo diciamo ministro dei trasporti ha stracciato questo accordo, ha detto io liberalizzo tutto, non me ne frega niente, sono 10 giorni che i tassisti protestano in tutta la Grecia, ieri c'è stato veramente un blocco generale, questi si mettono di fronte agli aeroporti, si mettono di fronte alle grandi navi da crociera, al ponte che collega il Peloponneso con l'Epiro, a Patrasso, allo sbarco dei Capetti, agli aeroporti, insomma, li hanno letteralmente bloccati. E ieri, insomma, il governo ha deciso di far intervenire la polizia, ci sono stati anche un po' di scontri, e soprattutto a Creta, insomma, il turismo ne sta risentendo in maniera decisamente pesante. Altre due notizie che vanno date per completezza: una riguarda il potere, diciamo così, il precedente governo, quello di Caramallis, della Democrazia Cristiana, se vogliamo chiamarla così in qualche modo, di centrodestra comunque, che ha governato fino a due anni fa, è venuto fuori in questi giorni un carteggio tra il premier Caramallis e il vice ministro delle finanze dell'epoca, parliamo del 2008, in cui questo vice ministro delle finanze, che si chiama Duca, diceva a Caramallis, dice: guarda che qui siamo in bancarotta, non ci fanno più prestiti da nessuna parte, il deficit è alle stelle, dobbiamo prendere dei provvedimenti. E quello ovviamente se n'è fregato, perché era in campagna elettorale e ha tenuto tutto nascosto. Diciamo, queste cose, per chi vengono fuori adesso è difficile dirlo, sconquassano certamente e ulteriormente Nea Democrazia, che è il partito di Caramallis, oggi all'opposizione, che ha perso le ultime elezioni, però la dicono lunga complessivamente sul cinismo di questa classe politica, perché poi bisogna metterci insieme anche l'opposizione dell'epoca, perché queste cose oggi vengono fuori nero su bianco per evidenti faide interne, ma era noto a tutti che la Grecia era insolvente già 3-4 anni fa, insomma, così come era noto anche ai capoccioni dell'Unione Europea, che oggi la stanno massacrando e tartassando, insomma, ma tutti hanno evidentemente giocato al tanto peggio tanto meglio in questo caso, e quindi hanno aspettato che finisse veramente sull'orlo del baratro, con tutte le conseguenze che poi conosciamo oggi. L'ultima notizia riguarda lo stato del movimento, il movimento, soprattutto gli occupanti di Piazza Sintagma, sono stati sgombrati due giorni fa. Ieri c'è stata una manifestazione ad Atene di protesta, ma anche, diciamo così, una manifestazione di chiusura, cioè questa cosa era abbastanza nell'aria, non si può dire che... Pronto? Sì, ci sei. Ah, ecco, non si può dire che fosse concordata, ma insomma in qualche modo segnava un po' la fine dell'occupazione e l'inizio di una pausa estiva, perché insomma ad agosto, per vari motivi, non ci saranno iniziative di quel tipo, cioè la smobilitazione di Piazza Sintagma e anche un rinvio a settembre di tutte le iniziative del movimento, insomma, evidentemente e auspicabilmente anche con alcune riflessioni su come proseguire la lotta. E io sto anche al termine della mia disponibilità, comunque il quadro è questo, è, diciamo, in evoluzione negativa, non positiva, e vedremo soprattutto questa lotta dei tassisti che ha anche aspetti di carattere corporativo ovviamente, ma che perlomeno aveva dalla sua un accordo con il presente governo e con il precedente ministro dei trasporti. Vedremo, perché il braccio di ferro è grosso, questi non intendono demordere, e ci risentiamo, spero al più presto, insomma, quindi saluti. Ecco qua, la comunicazione si è interrotta sui saluti.